Cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? E dai, come dice la sigla, quello che succede di bello in città lo trovate su lapunta.org, vi dico io. Questa è La Trapunta, oramai consueto appuntamento del lunedì pomeriggio alle 4:30 su Radio Wombat. Vi ricordiamo i contatti se ci avete da segnalarci eventi, curiosità, notizie. Posta wombat@insiberia.net. Questo è Bricovaldo che vi parla con accanto alla regia il Glando. Ciao a tutti. Grande piacere trovare Grande Lago nella tana del Wombat, che oggi è un po' cambiata rispetto ai lunedì scorsi, però noi siamo sempre qua sul pezzo. Oh yeah. Grazie anche a alcuni strumenti che sono stati costruiti apposta per essere sul pezzo. Stiamo parlando del grande calendario copiato a gancio e che ci serve per tenerci aggiornati sugli eventi della Firenze sotterranea e della Firenze che lotta. Oh yeah. Come al solito, Grande Drago, te non sei un abitué di questa. No, sono solo un paio di volte. Esatto, ma sai come funziona? So tutto. Okay. E vuoi dire qualcos'altro? Andiamo subito sì, un pezzaccio. Sì, no, voglio dire qualcos'altro, perché oggi è un giorno importante. Uh-huh. Abbiamo sentito una citazione, e allora le foibe, perché è proprio oggi. Oggi è il giorno del ricordo, che è il giorno che è stato istituito nel 2004 con una legge. Era il 30 marzo del 2004, il governo era Berlusconi, che fu approvata una legge proposta già ci avevano provato negli anni precedenti, già da metà degli anni 90, a far passare una legge che aiutasse i parenti delle vittime infoibate. Non riuscirono a farlo passare, ci sono riusciti nel 2004. Era la proposta soprattutto di Ignazio La Russa e di Alleanza Nazionale, naturalmente, insieme a Forza Italia, insieme a tutto il pacchetto. Era un po' il governo che era suo nel 2004. Hanno fatto passare questa legge che non è un po' diversa da quella che provavano a far passare prima, però fondamentalmente ha istituito il giorno del ricordo. E quindi tutte le commemorazioni, la diffusione nelle scuole e via discorrendo. Però c'è un grande dibattito dietro a tutto questo. Le foibe sì, le foibe no. Noi chi siamo per poter dire foibe sì o foibe no? Nessuno. Infatti ci rifacciamo a gruppi di persone che ne sanno ben più di noi. In particolare io segnalerei questo, che è il gruppo che si occupa proprio del revisionismo storico. Si chiama Nicoletta Bourbaki. Ha una pagina Facebook, Nicoletta Bourbaki, ma le pubblicazioni interessanti sono, io le ho trovate su Internazionale. Hanno fatto tutta una raccolta di studi, soprattutto di storici, che cercano di portare ordine in questa diatriba che non è solo una questione di foibe sì, foibe no, ma è anche una questione proprio di revisionismo storiografico, perché è strano, è una cosa che succede in Italia, ma non solo. Appunto, se andate a cercarvi la storia intorno alle foibe su Internazionale, si può trovare appunto anche altri esempi di storie simili. Si parla della Germania nazista e post-nazista, con territori diciamo contesi alla Cecoslovacchia e alla Polonia. Quindi è una storia che succede, è successa in varie parti del mondo, e poi anche in queste altre parti del mondo ha subito tutto un attacco propagandistico per far sì, insomma, di creare una memoria collettiva che fosse falsata. Eccolo. Allora, esatto, poi magari te su questo sarai ancora anche più ferrato di me, perché chi? Te, Ted Lago. Ah. E è soprattutto legato anche al revisionismo storico e all'utilizzo delle nuove tecnologie, perché a quanto pare le nuove tecnologie facilitano in un certo senso la diffusione di false notizie. Sì, perché non c'è un'attenzione alle fonti, e quindi tutto quello che si legge su internet spesso viene preso così come notizia vera, è attendibile, anche se non ha fonti o non c'è, non deriva da nessun tipo di studio, nessun tipo di attività giornalistica, come la vogliamo chiamare. Esatto. Quindi, e quindi poi fra l'altro abbiamo visto, cioè, sono sempre esistite, però sono più facili da produrre, da infatti mandare in giro, sì. Questo è un po' quello che dicono gli storici, fra l'altro, no? Che è un po' il problema contemporaneo, no? Del fatto che le fonti non sono attendibili, non si riesce a capire quali siano attendibili e quali no, però ci corrono in soccorso gli storici, che fanno quel che possono, a volte anche mettendo a rischio la propria incolumità, come abbiamo visto con uno storico, Gobetti, che tra l'altro studia da anni la questione dei partigiani, gli infoibati e via discorrendo, che è stato aggredito una settimana fa circa. Comunque non parleremo a lungo di questo, perché Nicoletta Bourbaki, a me piacerebbe contattarlo, anzi l'avevo fatto, però non è stato fatto in tempo, e quindi sicuramente, probabilmente li sentiremo la prossima settimana, visto che sulla punta c'è già caricato un evento riguardo alle foibe, proprio della settimana prossima. Comunque, bando alle ciance, fra poco iniziamo con la classica rassegna stampa, rassegna eventi, scusate, dalla punta.org. Prima un piccolo aggiornamento ci arriva da Piazza Tasso, se poi si può fare così. Certo, come vuoi, dai, tutto quello che ci vuoi. Torniamo più tardi, leggiamo l'evento della punta, ma intanto sentiamo. Ero pronto per il pezzaccio, però va bene. Dai, dopo. Ok, dai. Subito a ruota ti metto il pezzaccio. Ma dopo? Sì, subito a ruota, ci va sentiamo alla rassegna eventi. Quindi adesso ci sentiamo un compagno. Un compagno dell'occupazione di Via del Leone, che è attivo anche nel laboratorio di Laddarno, e insieme stanno svolgendo tutto un lavoro di riprogettazione in primis di Piazza Tasso, yes, e poi anche un po' più allargato a tutto il quartiere di San Frediano, che sta da anni oramai subendo un'aggressione fortissima da parte dell'industria del turismo, che sta cercando di portarsi via qualsiasi spazio pubblico. E niente, parola a loro. Bene, viva. Dai, è il Wabat. Buongiorno a tutte e tutti. Vi volevo invitare ai due prossimi appuntamenti del laboratorio di Laddarno, che è il comitato di progettazione popolare che è nato in San Frediano a fine settembre, che saranno il primo venerdì 14 alle 18 alle Leopoldine in Piazza Tasso, un'assemblea di quartiere dal titolo Reinventiamo Piazza Tasso, per appunto presentare alla cittadinanza e ridiscuterlo con chi ci sarà il progetto per una nuova Piazza Tasso, che appunto andrà ad agire su tutte le problematiche e le potenzialità della piazza, che è nato da un'assemblea di progettazione popolare collettiva che c'è stata in Piazza Tasso a fine novembre. Il prossimo appuntamento poi sarà lunedì 17 alle 17 sarà un'assemblea con tutte le realtà del quartiere per continuare a sviluppare il progetto di un patto di collaborazione col comune per l'inserimento della stanzina dei bambini all'interno dei beni comuni del comune di Firenze, in particolare del quartiere, e perché la gestione ne venga quindi affidata alle associazioni del quartiere, che si organizzeranno liberamente tra di loro. Quindi vi ringrazio ancora e colgo l'occasione anche per invitarvi al Carnevale dei Bambini di San Frediano, che sarà a tema ecologia, che sarà il pomeriggio del martedì grasso, quindi martedì 25 febbraio. Grazie ancora a tutte e tutti, concludo dicendovi di seguirci su Facebook e sulla punta.org per tutti gli ulteriori aggiornamenti. Gone, daddy gone, love is gone, it's gone, daddy gone, love is gone. E si parte con la rassegna eventi settimanale. Ci scusiamo per la settimana scorsa, abbiamo provato a farla ma è andata veramente male, è stato un'ora di silenzio, colpa nostra, problemi tecnici, non l'abbiamo fatta però non è passata. Comunque, rassegna eventi dalla punta.org, piattaforma autogestita per la promozione degli eventi negli spazi liberati, ma non solo. Si inizia con mercoledì 12 febbraio presso la prefettura di Firenze, sotto la prefettura di Firenze in via Cavour, abbiamo un presidio Firenze contro la guerra a sostegno dei lavoratori portuali genovesi che si oppongono allo sbarco di armi nel porto di Genova. Ripeto, prefettura di Firenze dalle ore 17.30 alle ore 19, mercoledì 12 febbraio. Sempre mercoledì 12 febbraio dalle 19 alle 23, assemblea cittadina verso lo sciopero transfemminista dell'8 e del 9 marzo 2020. A 4 anni dal primo sciopero femminista e transfemminista, la sollevazione globale delle donne e delle soggettività dissidenti non si ferma e sempre di più segna e travolge tutte le lotte esistenti. Assemblea cittadina presso Associazione Fiesolana 2B, via Fiesolana 2B appunto a Firenze, dalle 19, tutte e tutti invitati. Sempre mercoledì 12 febbraio dalle 21 a mezzanotte allo studentato autogestito Ponte di Mezzo 27, in via del Ponte di Mezzo 27, abbiamo la proiezione di Sorry We Missed You. Si tratta di un film che parla di una famiglia durante la crisi a Newcastle nel 2008. A seguire naturalmente un minimo di discussione, birrette fresche e sgranocchi, ripeto, alle ore 21 mercoledì 12 febbraio lo studentato autogestito Ponte di Mezzo 27. L'ultimo film di Ken Loach. Ultimo film di Ken Loach. E sempre mercoledì 12 febbraio, un sacco di cose, dalle 21 presso l'associazione Il Melograno in via Retina 513 ci sarà una cena veg alle ore 21 e a seguire concerto del grande Al Mustaqil che presenterà il suo nuovo album Arraga, viva! Andiamo a giovedì invece nell'aula Murales, facoltà di agraria, l'aula autogestita, abbiamo un corso di potatura olivi autogestito, naturalmente si tratta di una lezione teorica, quella di giovedì 13 febbraio alle 14.30, successivamente, cioè due giorni dopo, ci sarà anche la parte pratica che si svolgerà negli uliveti di Mondeggi Fattoria Senza Padroni. Ripeto, questo qua è giovedì 13 febbraio all'aula Murales in Piazza delle Cascine, Università di Firenze. Passiamo a venerdì 14 febbraio con progettazione dal basso di Piazza Tasso, presentazione della mappa e del progetto. Presso la Sala delle Leopoldine, all'ex convento delle Leopoldine, alle ore 18, assemblea aperta per discutere del futuro e di come autogestire Piazza Tasso e come andare avanti sulla autogestione della piazza. Tutte e tutti invitati, ripeto, venerdì 14 febbraio, ore 18, Sala delle Leopoldine, Piazza Tasso, numero 7. E sempre sabato 15 febbraio abbiamo un corteo a Roma, corteo a Roma a favore del Kurdistan per la liberazione di Öcalan, corteo che parte alle ore 14 da Piazza della Repubblica e quindi vi saranno pullman da Firenze. Per informazioni potete andare a guardare sulla punta oppure richiedere, prenotare al numero 328 1049 050. E il corteo, appunto, pullman da Firenze per tutta la questione curda e la liberazione di Öcalan che è in carcere da più di 20 anni. Sempre sabato 15 febbraio dalle 9 alle 13, seconda parte del corso di potatura degli olivi a cura del collettivo d'agraria di Firenze e Mondeggi Bene Comune. Il corso si terrà ovviamente presso Mondeggi Bene Comune, fattoria di Mondeggi a Bagno Arricoli, Firenze. 15 febbraio dalle 9 alle 13, potatura e si impara tutti insieme. Evviva! Sempre sabato 15 febbraio dalle ore 16, 16.30 alle ore 19 abbiamo un presidio in Piazza Strozzi a Firenze. No al piano Trump, la Palestina non è in vendita. Avremo un approfondimento fra l'altro sulla trasmissione della Trapunta con i compagni e le compagne dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese. Sempre sabato dalle 17.30 alle 20.30 presso Fuori Mercato, Rete Sociale, via di Ripoli 96 a Firenze. Popolo Chi, classi popolari, periferie e politica in Italia, a cura di Niccolò Bertuzzi, Carlotta Casciagli e Loris Caruso, prefazione di Nadia Urbinati, una presentazione con discussione al seguito, con aperitivo al seguito di autofinanziamento, sì, per lo spazio. Tra l'altro li abbiamo intervistati qualche settimana fa e quindi c'è sui podcast della Trapunta, si trova anche un approfondimento esattamente su Popolo Chi. Perfetto, sabato 15 febbraio dalle 17.30, Fuori Mercato, via di Ripoli 96. Sempre sabato 15 febbraio dalle 20 alle 22 presso il CSA Next Emerson in via di Bellagio 15 abbiamo una fast night con a suonare Failur, La Piena, Dragnet e DM. Fondamentalmente si tratta di punk hardcore, ripeto, via di Bellagio Next Emerson sabato 15 febbraio alle ore 20. Domenica 16 febbraio dalle 9 alle 17 continua la scuola contadina di Mondeggi e domenica 16 febbraio con introduzione alla birrificazione e cotta aperta con il gruppo di birra Mondeggi Bene Comune. Prenotazione obbligatoria, per prenotarvi per il corso scrivete a birrette@autoproduzioni.net. Ogni partecipante verrà provvedere a portare qualcosa da mangiare al sacco perché è improbabile che si riesca a cucinare per tutte e tutti. Naturalmente sarà tutto condiviso. Viva! Scuola contadina è libera e gratuita. Trovate tutto il programma completo della Più Giorni sul sito di mondeggibenecomune.noblogs.org. E andando a domenica 16 febbraio dalle 15 alle 19 abbiamo un evento presso il cantiere sociale Camillo Senfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio, Cinelab Bimbi al K100, Ernest e Celestine. Iniziano le domeniche dedicate ai bimbi con la proiezione di appunto Ernest e Celestine, la storia di amicizia tra una topolina e un orso contro i pregiudizi sociali, al Camillo Senfuegos domenica 16 febbraio dalle 15. Sempre domenica e sempre a Mondeggi, laboratorio teorico pratico di canto, ballo e festa a cura dell'associazione culturale La Leggera, sempre presso la fattoria di Mondeggi dalle 15 alle 19.30. È il secondo di tre incontri di introduzione alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi del canto e del ballo, nonché alla modalità della festa propria della cultura toscana, intesa come strumento di produzione culturale attiva. Viva Mondeggi, andateci, 15-19.30. Ancora la domenica 16 febbraio dalle 18.30 alle 1 di notte presso l'associazione del Melograno che si trova in via Retina numero 513 abbiamo una serata di cibo e musica dal Gambia. Dalle 18.30 cibo e musica dal Gambia, danze davanti al fuoco, bellissimo, e dalle 21 prove gratuite, prove aperte di Blea. Di Blea. Blea. Chiudiamo la rassegna con del cinema presso il Chinotto, il nuovo cinema autogestito presso il Next Emerson, domenica 16 febbraio alle 20.30 a Periscena e a seguire alle 21.30 proiezione di The Black Power Mixtape 1967-1975. È un documentario del 2011 che esamina l'evoluzione del movimento Black Power nella società americana attraverso i filmati del movimento USA. Apparizione di Angela Davis, Eldridge Cleaver, Bobby Sale, Newton e altri attivisti, artisti e leader più centrali del movimento. Questo durante la proiezione, vero? Questo durante, certo, appaiono tutti, sì, ti appaiono tutti, sì. Certo, ovviamente. Bene. La rassegna degli eventi è finita, settimana veramente densa, anche questa a Firenze, la Punta.org è sempre pronta a informarci su quanto succede e non lasciate le frequenze di Radio Wombat perché vi aspettano due approfondimenti, uno sul presidio in Piazza Strozzi con l'associazione Amicizia Italo-Palestinese e l'altro con non uno di meno in vista dell'assemblea cittadina organizzativa per lo sciopero transfemminista dell'8 e 9 marzo. Andiamo con un pezzaccio? Andiamo con un pezzaccio e ci risentiamo fra pochi minuti. A fra poco. Torniamo in regia con il sottofondo scelto da Drago e abbiamo qua una ospite, correggo, non dell'associazione dell'amicizia italo-palestinese, bensì di Asso Pace Palestina. Ciao Marisa. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta, non è la prima volta che ti sentiamo a questi microfoni, però quest'oggi andiamo a chiederti un po' riguardo al presidio in Piazza Strozzi e un po' più in generale su quello che sta succedendo in Palestina, perché voi avete pubblicato un evento dicendo la Palestina non è in vendita, no al piano Trump. Quindi intanto di che cosa si tratta di questo piano Trump? Sì, cercherei di sintetizzartelo, no? Sì, immagino che sia un bel papiro, quindi sì, diciamo appunto così. In punti salienti. Allora, primo punto, Gerusalemme diventerebbe una indivisa capitale dello Stato di Israele. Ricordo comunque che questa dicitura di unità e di indivisibilità di Gerusalemme era stata già proclamata in maniera unilaterale dal governo, dal Parlamento israeliano nell'80. Ecco. Sì, perché questo piano in realtà tira fuori e getta via la maschera a quello che a pizziche e bocconi sono venuti fuori come argomenti, no? O sottaciuti o non voluti far sentire in maniera evidente nel corso di questi decenni. E ti dico anche che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1980 con la risoluzione 478 dichiarò la legge che dichiarava appunto Gerusalemme una indivisa, nulla è priva di validità, ecco. In violazione del diritto internazionale è un ostacolo alla pace del Medio Oriente, e ecco. Quindi ecco che ritorna. Secondo punto, si prevede l'annessione pressoché immediata da parte di Israele della maggioranza delle colonie della Cisgiordania occupata. Della maggioranza nel senso che ci sono delle colonie che anche Israele non considera legali, pensa un po'. Poi, terzo punto, cosa dirti? La moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme diventerebbe di proprietà dello Stato ebraico. Ah, vedi. E l'accesso ai musulmani potrebbe essere solo fatto mediante un permesso rilasciato dalle autorità israeliane. Ecco. Tra l'altro, poi, dei passi sono già stati fatti. Io non lo so, Trump aveva già spostato l'ambasciata americana, sì, a Gerusalemme, quindi immagino che quello fosse già mettere un piede verso questa, certo, verso queste sicuramente decisioni. L'impossessamento di Gerusalemme è già avvenuto non solo da ora, nel senso dal 67, quando Israele occupò la Cisgiordania, e Gerusalemme Est ha portato avanti in 15 decenni un processo, come si dice, di giudizzazione di Gerusalemme Est, buttando giù palazzi e costruendo colonie totalmente rioni abbattuti. Poi un altro punto importante che viene finalmente alla luce e fa vedere la politica sionista di Israele appoggiato da Trump, che lo Stato palestinese che dovrebbe nascere praticamente avrebbe una percentuale di terra sulla Palestina storica dell'11%. Diventate 89 in mano a Israele. Sì, è diviso perché non tutti lo sanno, ma insomma la Cisgiordania è costellata da colonie che hanno diviso i villaggi palestinesi e che hanno hanno fatto sì che hanno costruito delle strade di non accesso ai palestinesi, quindi abbiamo tante piccole cellule, tante piccole enclave sconnesse fra loro. Sì, che si potrebbero chiamare molto più esattamente Bantustan. Ecco, questo Stato palestinese dell'11% sarebbe diviso in questi Bantustan. Okay, quindi ancora più complesso. Renditi conto. Fra l'altro, però, allora, precisiamo, perché questa qui sarebbe una soluzione a due Stati, giusto? Quindi facendo sì che lo Stato di Israele sorga uno Stato di Israele nettamente separato, anche se poi avvantaggiato, rispetto a uno Stato palestinese, giusto? Ma allora ascolta, quando si parla di Stato però bisogna intendersi, perché il piano prevede nessuna sovranità allo Stato israeliano, che non deve avere neanche un esercito. Palestinese, scusa. Scusa, ho sbagliato, palestinese, è un lapsus. E quindi come si fa a parlare di uno Stato anche quando si permette che i confini terrestri, marittimi, aerei siano comunque di sorveglianza israeliana? Esatto. Non si può parlare di Stato. Quindi è un po' un uso improprio. È un uso improprio di una definizione. E fra l'altro ci hanno quasi abituato a questo uso improprio, perché insomma Israele sta portando avanti queste politiche da un bel po'. Però quello che volevo chiederti io, avevo letto fra le varie cose che ho letto, forse anche proprio sulle vostre pagine, è che questa proposta è stata avanzata da Trump, è fortemente anche sostenuta da Netanyahu, ma non solo, anche dall'oppositore di Netanyahu. Fra un po' Israele va alle elezioni legislative e entrambi i candidati, sia Gantz che Netanyahu, sono... Gantz è forse più a destra, ecco, di Netanyahu. Ecco, infatti. Quindi spiegaci un po' che cosa sta succedendo, queste elezioni, che cosa potrebbero comportare per la questione palestinese e anche un po' più allargato, un po' più globalmente. Ma se viene riconfermato Netanyahu, la politica l'abbiamo già vista in questi decenni con l'appoggio degli Stati Uniti, e Gantz è più a destra di Netanyahu, quindi io non vedo ci fosse questo cambiamento nel governo israeliano, un cambiamento per la questione palestinese. Ok, non si vede all'orizzonte, no, alcun cambiamento. No. Netanyahu, fra l'altro, è stato condannato per corruzione. Sì, da tempo. Da tempo, però riesce a ricandidarsi nuovamente. Sì, okay. Lo strano appunto è anche questo, perché c'è una parte anche di israeliani che non vedono e non vedrebbero l'ora che anche Netanyahu andasse via, però comunque sa di fatto che sicuramente verrà riconfermato. amato. E l'uscita di questo piano Trump è strumentale anche al fatto che fra un po' ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, secondo te? Sicuramente, perché noi sappiamo che negli Stati Uniti c'è una grande lobby ebraica. E quindi per avere i voti si svende anche una terra, no? E in questo caso i palestinesi sono merce di scambio. Ecco, fra l'altro dicevi, si svende una terra. E questo proprio perché di fatto ci sarà un corrispettivo in denaro riconosciuto alle autorità palestinesi per queste terre espropriate? Sono stati previsti ingenti finanziamenti per portare a termine questo piano, perché queste varie isole, Bantustan, enclave, come le vuoi chiamare, sarebbero collegate con tutta una serie di infrastrutture, ponti, che appunto sovrappassando sulla parte che diventerà israeliana, collegheranno le varie enclave. Gaza, parliamo di Gaza. Parliamo di Gaza che è distante, cioè non c'è continuità fra l'ipotetico usare Stato, poi mi torna anche strano, territorio diciamo palestinese con Gaza, quindi è previsto un tunnel sotterraneo di 80 chilometri. Capito? Quindi gli investimenti, l'autorità nazionale palestinese verrà esautorata, nel senso che proprio con questo, se non si rialza un po' l'OLP e prende in mano in maniera energica a livello di pressione politica, cosa in questo momento non ha, l'ANP viene esautorata, cioè i finanziamenti già stanno riducendosi, no? Perché tanto è la mano longa di Israele, diciamolo così, purtroppo, insomma, no? Senti, invece i governi palestinesi come hanno reagito a questa notizia? Allora, la Palestina non c'ha un governo, no? Sì, sai, okay, che i rappresentanti c'è questa... palestinesi, sì, ecco, no, l'hanno rifiutato in toto, chiaramente, perché questa non è una pace, questa è la pietra tombale sul futuro dei palestinesi, perché non si parla, se non in negativo, del ritorno dei rifugiati, cioè si nega il ritorno ai rifugiati, dicendo quelli che sono negli altri paesi cercheranno di restare lì e di armonizzarsi in quei paesi, chi non vuole stare va a un altro paese. Ecco. E non si tiene conto dei diritti del popolo palestinese, cioè l'autodeterminazione di questo popolo nessuno la riconosce. Questo piano, ribadisco, è stato deciso dall'amministrazione Trump con Netanyahu, ma non sono stati chiamati al tavolo, come si fa in un accordo di pace, no? Esatto. I palestinesi. Quindi la reazione è stata netta da parte di tutti, infatti questa decisa posizione di rifiuto fa pensare che sarebbe forse il caso e il momento di eliminare le divisioni interne fra Hamas, Al-Fatah, capito? Perché veramente serve un fronte comune. Divide impera, è successo questo purtroppo, la mancata unità negli ultimi tempi, da quando praticamente nel 2006 fu eletta Hamas nella striscia di Gaza, c'è stata la rottura e questo ha minato veramente la forza del popolo palestinese a livello governativo. Bene, quindi allora più o meno l'hai detto, però perché scendiamo in piazza, perché un presidio in piazza Strozzi in settimana? Allora, diciamo che è necessario farlo, è necessario per chi non sapeva nulla della Palestina, per chi sapeva qualcosa ma non faceva finta di non sapere, per chi sapeva e taceva, per chi sapeva e ha inventato scuse o ha distorto i fatti. E quindi noi scendiamo perché chiediamo tutta una serie di cose, ma non è solo di ora, è da decenni. Cioè chiediamo il rispetto dei principi del diritto internazionale e l'applicazione di tutte le risoluzioni ONU che sono state puntualmente disattese. Chiediamo poi la fine dell'occupazione, perché ricordiamoci che la Cisgiordania è occupata dal 67. E occupazione è che Gerusalemme non sia la capitale solo israeliana, unica, come già la risoluzione dell'ONU decretava Gerusalemme è talmente così, come dire, indivisa, ma per le religioni, sì, sì. Non c'è solo quella israeliana, ma c'è anche quella cristiana. Quindi era stata decretata essere una città internazionale. Poi la fine dell'imbarco a Gaza, si chiede, perché Gaza, come ormai si sa, non si parla neanche di Gaza, si parla di prigioni a cielo aperto, di tomba scoperchiata. Si richiede il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di questo popolo. Ogni popolo ha questo diritto. Ai palestinesi è stato tolto ormai da decenni. Chiediamo la libertà di tutti i prigionieri, anche bambini. Ricordiamoci che nelle carceri palestinesi ci sono circa sui 300 bambini. Poi chiediamo la fine degli accordi di cooperazione militare e dei rapporti economici di scambio tra Italia e Israele, perché anche questo è un dato importante da far rilevare. Gli accordi accademici, universitari, certo. Che riguardano anche l'industria delle armi di Israele. Noi forgiamo armi. E già presi spazio in questa trasmissione e nello spazio che voi ci avete dedicato per far notare proprio questo, di quanto Israele prova le armi di alta tecnologia che ha, non avendo neanche, come dire, un campo di prova. Ha un campo a cielo aperto, c'è a Gaza. Prova direttamente sulla pelle dei palestinesi. Certo. Bene. Comunque no, allora un piccolo appunto volevo fare. Hai nominato una trasmissione e fra l'altro volevo un po' anche rimandare a quella, perché su Radio Wombat da circa, da quest'estate circa, sì, c'è una trasmissione settimanale che si chiama Buongiorno Palestina, sì, che va in onda tutti i mercoledì alle ore 19, fanno una mezz'ora anche abbondante con rassegna stampa, ospiti, molti ospiti, molte voci, fra l'altro anche la tua. E quindi niente, questo. Vuoi dire due parole su Buongiorno Palestina? Sì, sono molto onorata di dirti che ringraziamo voi che ci avete dato questo spazio, che per noi era essenziale e è diventato ancora più essenziale, perché ci si rendeva conto che fra noi si parlava sempre molto e spesso, ma non era sufficiente, era importante distribuire, diramare, no, diffondere un'informazione che non sia, sia quella manipolata, revisionata dai lecche dei giornali. E quindi questo per noi è stato, come dire, un grande impegno, ma continuiamo a farlo con grande gioia, perché non so quanti saranno quelli che ci ascolteranno. Potenzialmente infiniti. Ecco, benissimo, mi fai piacere a dirvi così. E quindi ci impegniamo, perché per noi questo è veramente, dà un senso al nostro parlare. E ti dico anche, se non lo sai, che siamo stati messi nella piattaforma nazionale di Assopace Palestina. Benissimo, questa è veramente una grande gioia per noi, ma per tutti i bombati, tutti e tutte le bombate. Veramente sì. Allora, ricordaci un po' i contatti dell'associazione. Allora, l'associazione ha un indirizzo email, avete una piattaforma, un sito, dove pubblicate non le cose? Non mi ricordo l'estensione, perché mi arrivano. Allora, abbiamo il sito nazionale di Assopace Palestina, la sede è a Roma. Noi qui a Firenze non abbiamo un sito, perché tutte le informazioni dei vari gruppi dislocati e distribuiti in Italia finiscono tutti in questo sito nazionale. Okay. Va bene, quindi mi sembra un'ottima piattaforma alla quale rifarsi, anche perché io ho trovato un sacco di cose sulla piattaforma vostra, quindi invito a tutti e tutte è quello di andare a dare un occhio alla piattaforma di Assopace Palestina, naturalmente di andarsi a vedere i podcast di Buongiorno Palestina, possibilmente ascoltarlo anche in diretta il mercoledì alle 19, ci sono anche un paio di repliche previste in palinsesto. Hai qualcosa altro da dirci? Di nuovo grazie infinite per questo ulteriore spazio in cui abbiamo potuto, oltre a dare la segnalazione nella rassegna stampa della manifestazione di sabato, anche di parlare dei contenuti, e lì in piazza ci sarà il modo, anche chi vuole ascoltarci, di sapere di più, insomma. Bene, allora rimandiamo al presidio, ridiciamo anche il giorno a questo punto e l'ora, così... Sabato 15 alle ore 16 in piazza Strozzi. Bene, perfetto. Noi mandiamo un pezzo e ci risentiamo dopo con Non Una Di Meno Firenze. Molto bene, abbiamo sentito Marisa di Asso Pace Palestina, ci apprestiamo a chiamare Sara di Non Una Di Meno Firenze, ci provo, vediamo se si sente qualcosa, i potenti mezzi bombati. Pronto Sara? Mi sento. Mi senti? Ok, benissimo, ciao, buonasera, benvenuta ai microfoni di Radio Wombat. No, grazie a te. Allora, noi ti chiamiamo in merito all'assemblea cittadina che avete indetto per mercoledì. Esatto. Sì, Si tratta di un'assemblea in vista dello sciopero transfemminista previsto per l'8 e il 9 di marzo. Allora, intanto c'è una novità, questo 9 di marzo, che cosa rappresenta, che cosa volete che rappresenti? Allora, sì, questo mercoledì alle 19 alla libreria delle donne ci sarà l'assemblea pubblica che, come Nuna di Meno Firenze, abbiamo chiamato per presentare alla città appunto lo sciopero dell'8 e del 9 marzo, perché abbiamo scelto come Nuna di Meno di prenderci due giornate di mobilitazione quest'anno, perché dal momento che l'8 cadeva di domenica, abbiamo valutato che questo ci dava l'opportunità di portare veramente nelle piazze e nel dibattito cittadino e nazionale e oltre sia la questione dello sciopero produttivo che lo sciopero riproduttivo. Quindi abbiamo deciso che tenere una giornata di mobilitazione di domenica, in cui in molte piazze d'Italia, in molte città d'Italia ci saranno cortei, ci saranno manifestazioni, avrebbe potuto accentuare il fatto che le donne non solo sentono la necessità di mettere bene in chiaro che il lavoro che noi facciamo è quello sui posti di lavoro, ma anche quello che viene comunemente detto lavoro riproduttivo, e cioè quello che facciamo quotidianamente nelle case, nelle famiglie, tramite i lavori di cura, magari con i bambini, magari con gli anziani, occupandoci appunto della famiglia o della casa. E anche perché di domenica non è vero che non si lavora, ci sono comunque molti settori, in particolare quello del commercio, in cui le domeniche non sono più di festa ma sono lavorative, ed è un settore in cui ci viene anche naturale pensare che le commesse siano donne, e ecco, ai lavori di cura come quelli per esempio del settore della sanità, da appunto le infermiere a tutte quelle figure badanti, esatto, le badanti, tutte quelle figure femminili che si occupano non tanto del benessere a livello di cure mediche di chi in quel momento non sta bene, ma proprio di quel benessere quotidiano di cui le persone, sia grandi che piccole, hanno bisogno, e che comunque sono ruoli per la stragrande maggioranza ricoperti da donne, e che troppo spesso passano in secondo piano, se non addirittura invisibili. Ecco, ma cioè, ora giusto una curiosità, ma ad esempio in molti di questi lavori, nel commercio magari no, però per quanto riguarda la sanità, sono lavori che nonostante i contratti riconoscano la possibilità di scioperare, però c'è anche l'obbligo di mantenere i servizi attivi. Come si conciliano queste due cose? Simbolico, ma va anche detto che come Certo. Forse dovranno mettersi in pace col fatto che io sto parlando in una prospettiva in cui lo sciopero diventasse veramente capillare. Il giorno dello sciopero delle donne dovranno fare gli straordinari colleghi uomini, per esempio, se vogliono ricoprire questo aspetto. Oppure, certo, la cosa migliore sarebbe che anche i colleghi uomini scendessero in piazza con le donne. Eh beh, direi. Senti, fra l'altro ho visto, avete pubblicato un lungo appello dove ci sono tutta una serie di rivendicazioni che sono tante, e intanto un paio di cose volevo chiedertele. Uno, viene nominata più volte la parola sicurezza, e quindi volevo chiedere un po' che cosa intendete per sicurezza, perché è un termine che ha assunto dei contorni via via sempre più ampi nell'arco degli ultimi anni, quindi un po' quello che intendete voi. Ecco, nel vostro appello vi scagliate fortemente contro il patriarcato, e fra l'altro fate anche un parallelismo fra il patriarcato e il capitalismo, quindi voi tendete ad accomunarli, a quanto ho capito, e perché? Parimenti eliminati, sia perché certo, su cui andare a scaricare il peso che magari il più forte economicamente mette sul più debole economicamente, che però è comunque più forte della donna che lo aspetta a casa. Ecco, ma e avete un modello alternativo da proporre a quello capitalistico? Beh, o almeno sicuro, voi vi rifate a un modello? Beh, di sicuro è tutto in divenire, è un processo aperto e purtroppo nessuno di noi ha una ricetta magica. Certo, se guardiamo un po' fuori dall'Italia, dall'Europa, di progetti estremamente interessanti a cui guardare iniziano ad essercene. Il primo che mi viene in mente di sicuro è il confederalismo democratico della Siria del Nord e dell'Est, dove le donne ricoprono un ruolo collettivo centrale, ma anche le donne sudamericane, le donne indigene. Il punto è, cioè io penso che noi non possiamo andare a cercarci un modello già pronto, perché ogni parte del mondo, ogni società ha le sue necessità, le sue esigenze e la sua cultura, ha le sue letture del mondo. Quindi dobbiamo cercare di fare un lavoro che ci permetta di portare avanti questo processo e questa lotta alle nostre latitudini, e purtroppo la ricetta magica, ripeto, non ce l'abbiamo. No, vabbè, no, certo, era un po' una domanda retorica, è chiaro, altrimenti l'avevamo già saputa. Comunque, esatto, no, di questo ne sono certo. Però ecco, quello che ti volevo chiedere è un po' se dalla nascita di Nonno di Meno, che è ormai diversi anni, tutte le campagne portate avanti, sia le campagne social che tutti i flash mob, sono stati fatti dei passi avanti secondo te, secondo voi, anche poi in seguito a tutta la campagna MeToo che ha imperversato sui mezzi elettronici per mesi e mesi, ha fatto anche delle vittime apparentemente. Certo, certo. Senti, allora, vabbè, un'ultimissima cosa, poi ti lascio perché siamo anche un po' stretti, è quella di, intanto ricordiamo la data dell'assemblea, che sarà mercoledì, esatto. E alle ore? Alle ore 19. 19. Presso l'associazione Mariano Ferreira, se non mi sbaglio, vero? No. Bene, alla libreria delle donne. Libreria delle donne in via Fiesolana. Okay. Che è un po' il luogo di ritrovo di Nonno di Meno Firenze, attraverso un'assemblea settimanale che serve per organizzare tutte le lotte, i presidi, le campagne, ma non solo, è anche un punto di ascolto, giusto? Certo, noi ci ritroviamo appunto in via Fiesolana tutti i mercoledì dalle 19 e sì, siamo un collettivo, quindi sia ci organizziamo su quelle che sono le nostre Bene, no, hai detto a mio parere una cosa veramente significativa, è un po', prima parlavamo di sicurezza, che da un punto di vista etimologico vuol dire senza cura, invece ti hai detto proprio che voi fate un lavoro di prendersi cura l'una dell'altra, quindi direi che tutto questo è un cambio, direi quasi rivoluzionario nell'approccio a questo tipo di problemi. Va bene, se non... Certo. Va bene, bene. Non so, se hai altre cose da voler ricordare, se no noi siamo un po' in chiusura e quindi ti lasceremo a fare... Insomma. Ma se c'ho giusto un secondo, ne approfitto. Certo. Per ricordare gli eventi di avvicinamento all'8 marzo, che oltre all'assemblea di mercoledì 12 ci sarà un'iniziativa in Brunelleschi il 14 febbraio, il cui titolo è Contro l'idealizzazione dell'amore romantico. Poi ci sarà un altro incontro il 21 febbraio a Palazzo Strozzi, e sarà un convegno il cui titolo è Sciopero femminista, riflessioni, pratiche e lotte collettive. Faremo la festa di autofinanziamento Lotto e Ballo il 21 febbraio a Azione Gay e Lesbica. Il 29 febbraio al CTA presenteremo il libro di Anna Curcio, Introduzione ai femminismi, e il 6 marzo presenteremo Siamo Marea, sempre un libro, al Giardino dei Ciliegi, e siete tutti e tutte invitati e invitate. Bene, bene, grazie mille. Allora ci vediamo in uno di questi eventi e sicuramente continueremo a seguire con Radio Wombat. Grazie a te, grazie a Radio Wombat. Bene, bene, buona serata. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo sentito la campagna e non ci rimane altro che sollazzarci con un po' di musica. Was it with you or were you with me? Yes, my suit is tight and the light shines bright on me. It's Friday night in the club, celebrating that I'm me. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find the light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? I saw you in the corner, damn. I saw you twice. It's the liquor that's watching you straight from my eyes. Nice and slow I'll come over to you, tell you all the things that you wanna hear from me too. You got all the right tools, I'm the one that's lost here. You say you spend the day on the beach and we can just play. I'm sure you're really nice, but I can't remember your name. And I kinda hate myself for even being in this place. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find the light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? I'm so sick of this, it's ridiculous. Think my liver is about to give in. It's pretty imminent, walls closing in, space limited. Anything to fill this hole of emptiness. Now I'm onto this, way to cultivate a fake confidence. Now it's on again, drop a clonopin. I just wanna know the stress is gonna end. Love the way she make me say, ah, again. Though it's not a mental, I'm honoring. Fly away and stop and then I start again. Steady nodding, man, I'm a guy. kind of real. If I don't find what I be searching all up in, all the bottles and pretty models and just a way to leave and step up out of me. Drink or smoke or needle in the artery. Tell my honesty and my modesty. Disappear while I am on this odyssey. All I want to do is see it clear. Trying to get to anywhere but here. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find a light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? See, I am not wearing the clothes that I left with. This is not the bed I made for breakfast. I don't know why. Bene, torniamo in regia. Dopo un breve stacco musicale, anche se siamo un po' in chiusura, però dai, ci siamo. Abbiamo qualcosina da dire ancora? Che dici, Dlago? Io sì, una cosina ce l'ho. Come non è Miro? Quello là? Allora no, prendi questo, dai. Allora, sì, cosine da dire, solamente un piccolo consiglio di rimanere sulle frequenze di Radio Wombat, perché alle 21.30 abbiamo la diretta di Coccoli al Silicio. Che Coccoli. Lunedì. Coccoli al Silicio, sì. Fatevi un po' coccolare. Fatevi un po' coccolare dai compagni e le compagne smanettone, che giusto lunedì scorso hanno fatto la prima puntata collettiva insieme alla Club Fiorentino. Oh yeah. Io ho ascoltato solo in parte, se devo essere sincero, ancora non ho avuto il tempo di riascoltarmi tutto il podcast, ma lo farò molto presto. Poi niente, lunedì così ci sarà una replica casuale stanotte e poi le repliche di domani ci sarà anche la diretta di Stampa Rassegnata con il nostro Moma, che ogni settimana ci riporta all'attenzione articoli di giornale che particolarmente lo hanno colpito. Ok, ma io qui sulla... Ah, vabbè, finisci. Vai. Io qui sulla scaletta c'ho una cosa strana. Cos'hai? È il giorno del ricordo. Giorno del ricordo? Ah, ne parlavamo poco fa. Poco fa. Ma cosa, vogliamo sentirla? Proviamo a sentirla. Sono curioso. Vai. Sentiamo che cos'è. Commentiamola anche. Sentiamola? Sì. Vai. Se non mi sbaglio è... Salvini. Un nome del ricordo di queste migliaia di... Le foibe. Donne, uomini, massacrati, sì, solo in quanto italiani. La vera e propria pulizia etnica fatta dai comunisti, sì, slavi e non solo. Sì, sì. Quindi onorare il ricordo del passato perché non accadano mai più bestialità simili in futuro. No. Spiace che ci sia ancora qualcuno che ritiene come che ci siano morti di serie A e morti di serie B e che questi italiani detto da lui siano un po' meno morti, perché morti per mano comunista, però ormai sono pochi negazionisti rimasti. Assolutamente. Folle chi nega la Shoah e folle chi nega le foibe. Vero. No, fra l'altro mettiamole insieme queste due cose, perché ci stanno proprio, caro Matteone. Vatti a leggere un po', visto che sei sempre su questi cazzi telefono, vatti alla spippolare, digiti Nicoletta Bourbaki e sul nostro suggerimento ti puoi leggere un po' di quello che dicono gli storici, che sono molto ben più formati di te, più informati e informati di te, e magari sanno dare informazioni meno propagandistiche e più invece succulente. Oh yeah. E chiudiamo? Si chiude. Ricordatevi le repliche il martedì alle 16.30, il giovedì alle 13, se non mi sbaglio. Il lunedì prossimo, naturalmente, 14.30, in onda su 13.59 con la trapunta, gli eventi della settimana. Viva. Dai, buona Saluti. Serata. Buona serata. Does it easy, does it? They got something to say. One, two, three, what? Butter warm, butter warm, butter warm, butter warm, butter warm, butter warm, butter warm. La la la trapunta, la la la trapunta, la la la trapunta, la la la trapunta, la la la trapunta, la la la trapunta, la la la trapunta, la la la. Cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa, quel che di bello c'è in città, lo trovi sulla punta. La trapunta.